6G. Ascolta e trasforma. Voglio il suo numero di telefono. Voglio i suoi numeri di telefono. Voglio il suo foglio. Voglio i suoi fogli. Voglio il suo CD. Voglio i suoi CD. Voglio il suo dizionario. Voglio i suoi dizionari. Non voglio la sua lettera. Non voglio le sue lettere. Non voglio la sua rosa. Non voglio le sue rose. Non voglio la sua fotografia. Non voglio le sue fotografie. Non voglio la sua chiave. Non voglio le sue chiavi.